Ti avrei voluto solamente per dispetto a chi non ha avuto mai parole, comunque non ha mai detto tutto, e adesso è solo la pietra che mi spinge ad essere insensibile. Solo la felicità che tatuato.